dark per mangiarsi anche il mio nome. L'angelo custode, l'ho perso per la strada, ingannato dalla vita, risucchiato in una bara, sotto sti lampioni dentro una bambina slava. Cerca soluzioni per sto male che si aggrava. La mia generazione sta ammalata, cresciuta impazzita, deviata, mentre viene soffocata, urla il suo dolore ma non viene mai ascoltata, traumatizzata, fatta a pezzi e dopo riciclata. Lasciami da solo che sto male non si placa, mi rende nervoso il cielo di questa giornata. Sputo ancora odio perché è andata come è andata, la mia generazione muore su un'auto ubriaca. Qua mi manca l'aria sotto ste macerie, respiro a malapena e voi credete che sto bene. Lo spingo nelle vene perché è quello che mi resta, paradisi artificiali sulla mia terra promessa. L'unica certezza è il giorno della morte, non c'è più salvezza, trascinato da Caronte oltre l'orizzonte se il cielo cade a pezzi. Non c'ho più futuro a parte gli stessi rimorsi. Teste metamorfosi ci cambiano col tempo, angeli soggiornano una vita nell'inferno. Cosa c'è qui dentro? Meglio non saperlo. Tenere gli occhi chiusi e poi volare contro vento. Io non ce la faccio di chiudermi allo specchio, l'immagine riflette un bambino nato vecchio. Adesso non accetto i tuoi buoni consigli, e se vedo solo il male cavo gli occhi con due spilli. Cerca di colpirmi con la forza necessaria, sotto ste macerie sta finendo tutta l'aria. L'odio qua dilaga, io voglio morire senza troppi pianti, tanto smetto di soffrire. Qua non si decide, è sempre tutto imposto, il demonio ti sorride perché sa che tu sei il mostro. Tutto questo inchiostro sprecato su sta carta, ritorno all'alba coi morti viventi nella stanza. Ogni somiglianza tende a spaventarmi, fantasmi dal passato vengono per soffocarmi. Mi sveglio questa notte col cuore che inizia a pulsarmi, di fronte al tuo demonio che cerca di calmarmi. Sotto le macerie, una vita qua sotto, ti voglio portare nel mio inferno quotidiano, giorno dopo giorno, i piedi di carne, questa è la nostra violenza. Sotto ste macerie, senza più speranze, il male nelle arterie spinge l'odio dentro al sangue. Solo conseguenze di un male che si espande, il tuo angelo custode non la smette più di piangere. Sotto ste macerie, senza più speranze, il male nelle arterie spinge l'odio dentro al sangue. Solo conseguenze di un male che si espande, il tuo angelo custode non la smette più di piangere. Sotto ste macerie, senza più speranze, il male nelle arterie spinge l'odio dentro al sangue. Solo conseguenze di un male che si espande, il tuo angelo custode non la smette più di piangere.